Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17, 6 minuti e 30 secondi. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per intervenire in diretta. E anche oggi Borsa Italiana ci fa questo regalo, l'informativa sui prezzi in tempo reale per alcuni strumenti, su alcuni canali informativi, non è aggiornata, comunica Borsa Italiana in una nota. Noi vi diamo quello che abbiamo, quello che vediamo tramite il nostro sistema, e quello che vediamo è ancora una volta una giornata di cali, con il Dow Jones che cede mezzo punto percentuale, lo Standard & Poor's 500 lo 0,65, il Nasdaq l'1,08%, vediamo l'Europa che va male, Francoforte su tutti che perde il 2,4%, Parigi lo 0,77%, Londra quasi 2 punti percentuali, Milano da quello che vediamo e posto che ci sono alcuni valori che potrebbero non essere aggiornati, come ci comunica Borsa Italiana, il FTSE MIB cede lo 0,28%, il FTSE All Share lo 0,6%, dopo una giornata estremamente volatile, come forse ci si poteva aspettare dopo la giornata invece pesantissima di ieri, tanto in Europa quanto in America. Un dato positivo sulla disoccupazione americana, sull'occupazione americana, aveva portato gli indici a virare al rialzo e poi, come vedete, di nuovo cedono tutti. Naturalmente questo sarà il tema ancora una volta al centro di questa puntata di Focus Economia, tanto la situazione globale e magari anche le ragioni macroeconomiche, se ce ne sono a questo punto, del perché i mercati stiano andando così male, quanto il più specificatamente quel che riguarda l'Italia, i rischi che ci sono per l'Italia, insomma. Ve ne abbiamo parlato anche questa mattina, tra l'altro, nella nostra puntata speciale di Salvadanaio. Iniziamo dalle notizie in breve di oggi. L'oro ovviamente va molto bene, il crollo delle borse ha spinto le quotazioni a $1,654,35 l'oncia, il metallo resta comunque sotto il record di $1,681 toccato ieri. Ed è ancora in calo il petrolio, ancora una volta ampiamente sotto i $90 al barile, livello al quale era fino a pochi giorni fa, $86,50. Il calo a New York in apertura è stato dello 0,1%. I dati dagli Stati Uniti. L'America, 117.000 posti di lavoro sono stati creati in luglio, con un tasso di disoccupazione calato al 9,1%, crescita di posti di lavoro nettamente superiore alle attese del mercato, che puntava su 85.000 nuove posizioni lavorative. È stato rivisto poi al rialzo il dato di giugno, con 46.000 nuovi occupati contro i 18.000 comunicati in precedenza. E però il tasso di occupazione è al 58,1%, il livello più basso dal 1983. E non solo, quindi sono dati in chiaroscuro, e forse è stato successivamente, quando la borsa ha letto meglio questi dati, quando i mercati hanno letto meglio questi dati, che si è ricominciato a vendere. Perché? Perché il tasso di disoccupazione americano, come si diceva, è calato grazie all'aumento degli scoraggiati. Sono infatti 193.000 gli americani che hanno rinunciato a cercare un'occupazione, quindi 117.000 posti di lavoro in più, ma 193.000 che hanno rinunciato, e quindi cala il tasso di disoccupazione. C'è un dato negativo anche dalla Germania, il primo, in realtà non il primo, però uno dei pochi che registriamo da qualche tempo. La produzione industriale ha segnato a sorpresa un ribasso mensile dell'1,1 in giugno, gli economisti puntavano sul rialzo dello 0,1%, c'è da segnalare però che su base trimestrale l'economia tedesca, la produzione industriale tedesca cresce del 2% circa. E poi c'è la questione degli spread, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedeschi è salito ancora una volta, oggi è tornato sopra i 380 punti all'incirca a metà giornata. L'ultimo dato che abbiamo di poco fa è che lo spread oscilla intorno ai 379 punti, ma il dato interessante ancora una volta, e su questo cercheremo di avere lumi dai nostri ospiti, è che il premio di rischio invece dei titoli spagnoli viaggia stabilmente sotto i 370 punti, a 369. Quindi lo spread tra BTP e Bund è più ampio rispetto a quello spagnolo. Tra l'altro questo il tasso del BTP decennale ha superato quello dei bonus spagnoli, è in forza di questo che è cambiato lo spread. Il rendimento del decennale italiano è al 6,23% contro il 6,18% degli spagnoli. E oggi ci sono stati contatti tra Angela Merkel, Sarkozy e Zapatero via telefono. Non è prevista che ci sia una partecipazione italiana ai colloqui. Parla anche il commissario degli affari economici e monetari Olli Rehn, che dice tra l'altro non c'è nessun piano di salvataggio per Italia e Spagna, l'Italia deve accelerare le riforme. Priorità alla concorrenza nel settore delle professioni e poi riforma del welfare, un passo molto importante per la sostenibilità dei conti pubblici, dice Rehn. Parla anche il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, dice nessun rinvio dopo l'estate per mettere a punto le misure necessarie per il rilancio dell'economia italiana, ci incontriamo già la prossima settimana con le parti sociali, molte azioni sono in corso. E ancora i dati dall'economia italiana, più 0,3% il prodotto interno lordo nel secondo trimestre, più 0,8% su base annua. La crescita acquisita nel 2011 è di un più 0,7%, cala intanto la produzione industriale in giugno dello 0,6% e su anno è un più 0,2%, e per quanto riguarda luglio c'è la stima del Centro Studi di Confindustria che indica un calo dello 0,4%. E saranno proprio questi i temi che affronteremo in questa puntata di Focus Economia. Iniziamo dunque dall'Europa e dalle parole del commissario all'economia, agli affari economici e monetari della Commissione europea, Olli Rehn, parlando proprio dell'Italia, della necessità di accelerare sulle riforme. Italy has taken the measures to secure a balanced budget by 2014. L'Italia ha adottato le misure per assicurare il pareggio di bilancio entro il 2014. La puntuale attuazione di queste misure è oggi di fondamentale importanza. Il governo ha anche annunciato che altri provvedimenti saranno adottati per ridurre le alte esigenze di finanziamento previste per i mesi a venire. Una scelta che accogliamo con favore. La Commissione condivide anche l'intenzione di inserire nella Costituzione l'obbligo del pareggio di bilancio, in modo che questo diventi un impegno permanente. Il piano di riforma del welfare, che è attualmente all'esame del Parlamento italiano, è un passo molto importante verso la sostenibilità di bilancio, ma la sua approvazione e attuazione devono essere accelerate per avere effetti positivi già nel 2012. Come già sottolineato recentemente, l'assoluta priorità per l'Italia è in questo momento quella di muoversi velocemente per varare le riforme strutturali che permettano di rilanciare la crescita economica. Il governo dovrebbe lavorare a stretto contatto con le parti sociali per varare misure coraggiose e attuarle in fretta. In questa strategia, l'apertura del mondo delle professioni e nuove riforme del mercato del lavoro dovrebbero essere considerate prioritarie. Così il commissario agli affari economici e monetari della Commissione europea, Olli Rehn, che come vedete e come avete sentito più che altro entra abbastanza nello specifico dei temi delle riforme italiane. Ci chiedete, avete ragione, lo fate da qualche giorno, quanto vale un'oncia, perché le quotazioni dell'oro si danno in once. Un'oncia vale circa 28,3 grammi e poi c'è un qualcosa di periodico. Saluto Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Allora, io partirei proprio dai temi europei con te, poi tra poco ci metteremo anche in contatto col professor Mario De Aglio, che è docente di economia internazionale all'Università di Torino ed editorialista della Stampa, così faremo un punto completo. E partirei dai temi europei per questo strano vertice telefonico a tre Merkel-Sarkozy-Zapatero. È veramente curioso, Guido, che non sia stata coinvolta l'Italia in tutto questo. Beh, non è la prima volta che accade che dobbiamo registrare purtroppo una situazione di questo genere. Ieri in conferenza stampa Berlusconi e il ministro Tremonti hanno parlato di un'iniziativa, non solo ha detto Tremonti Italia su Italia, ma siamo impegnati in un'iniziativa Italia su estero e quindi con contatti e colloqui con gli altri leader europei. Evidentemente questi colloqui ancora non ci sono stati, o comunque se ci sono stati hanno tagliato fuori, come dicevi tu prima, l'Italia. Poi credo che sia stato fatto notare, diciamo, una mezz'oretta fa, che il Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con il Premier Zapatero, però questo, diciamo, non cambia di molto la situazione. La cosa, diciamo, è magari sgradevole, diciamo, per l'Italia ancora una volta, però è anche da sottolineare il fatto che questa volta è proprio l'Italia, diciamo, in questa fase protagonista purtroppo di questo momento. E vorrei ricordare che il debito italiano, terzo nel mondo, rappresenta da solo il 25% dell'intero debito europeo. Quindi parliamo, quando parliamo del caso di Italia, parliamo dell'Europa, di una crisi che, se dovesse, diciamo, avvolgere fino in fondo l'Italia, potrebbe avere dei contraccolpi sulla stessa costruzione europea. Quindi è proprio per questo, Guido, che trovo la cosa curiosa oggettivamente, al di là di tutte le ironie politiche che stanno arrivando adesso anche via SMS dagli ascoltatori. Il tema è quello: è strano non coinvolgere il paese che forse è più sotto attacco in questo momento in una discussione di questo genere. Dà l'impressione di una sorta di difetto di responsabilità, al di là di tutte le valutazioni politiche che gli altri leader possono avere sulla leadership italiana. È esattamente come dici, e tra l'altro l'Europa dimostra ancora una volta, dal punto di vista della sua governance, della sua capacità di intervento su questi temi, mostra, diciamo, di muoversi con grande ritardo e con molte incertezze. Quindi questo, diciamo, non fa bene al quadro generale. E certo, questo il punto dal lato più puramente europeo. Io ti chiederei anche, Guido, perché nella confusione della giornata di ieri, nella confusione sui mercati della giornata di ieri, abbiamo avuto scarsa occasione di fare un punto vero su quello che è emerso da questa due giorni istituzionale, se così possiamo chiamarla, nella quale abbiamo visto prima il Presidente del Consiglio alla Camera per un discorso che molti osservatori, non solamente di sinistra, insomma, hanno giudicato piuttosto debole, e poi gli incontri con le parti sociali di ieri, alle quali sono stati sottoposti 8 punti di ipotesi di riforma, con un senso di urgenza che è arrivato soprattutto dalle parti sociali, mi sembra di capire. Sì, direi che il senso dell'urgenza è arrivato dalle parti sociali ed è forse l'elemento più importante e positivo, cioè un richiamo a quella che è una situazione di grave emergenza. Come hai detto tu, l'intervento di Berlusconi l'altro giorno alla Camera è stato un intervento piuttosto deludente sul piano dei contenuti. È avvenuto alla vigilia dell'incontro con le parti sociali. Sappiamo, le parti sociali hanno presentato un documento comune in 6 punti, il governo ha risposto con i suoi 8 punti, ma più o meno, diciamo, i capitoli, i temi sono gli stessi. Oggi il segretario del PD, Pierluigi Bersani, proprio sul Sole 24 Ore, ha richiamato l'attenzione su 5 punti specifici, quindi parliamo sempre più o meno dei temi che conosciamo a memoria, non dico da settimane, ma da mesi, per non dire da anni, cioè quello delle riforme, della capacità di intervento per ridare fiato all'economia italiana, al di là, diciamo, di quello che è il doveroso controllo dei conti pubblici. Ieri Berlusconi si è lasciato andare anche a una previsione dicendo ne riparliamo a settembre. Ecco, credo che, diciamo, la giornata di oggi, di ieri, il finale della giornata di ieri e l'inizio della giornata di oggi abbiano convinto un po' tutti a muoversi per serrare le fila anche dal punto di vista dei tempi, e quindi avremo probabilmente degli incontri la prossima settimana. Non è un mistero che la Banca d'Italia auspicasse anche un successivo passaggio parlamentare, cioè nuovi incontri tra il governo e le parti sociali, e poi di nuovo, diciamo, per in Parlamento per un confronto serrato sul da farsi. Credo che davvero il fattore tempo sia decisivo e dovremo aspettarci, credo, da qui a Ferragosto qualche intervento. Bene, io saluto il professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino ed editorialista della Stampa. Professor De Aglio, buonasera. Buonasera a lei. Prima devo però fare una correzione, ho detto, per dirla elegantemente, una castroneria. Naturalmente un'oncia corrisponde sì a 23 grammi, ma non è la stessa oncia con la quale si pesano i metalli preziosi, che corrisponde in realtà a circa 31 grammi, e chi lo scrive via SMS naturalmente ha ragione, qualcosina ogni tanto sfugge. Professor De Aglio, le vorrei chiedere innanzitutto come legge la situazione non tanto dell'Italia, la situazione globale. Qua siamo con un Dow Jones che perde ancora un punto percentuale adesso, dopo il disastro di borsa di ieri e dopo delle tensioni che evidentemente continuano a scaricarsi. Professore. Ma intanto scusi se faccio una precisazione da professore, ma l'oncia normale non è 23 grammi come ha detto lei, ma 28. Si vede che con le once proprio... Oggi non ci siamo. C'è qualche problema. Direi che però questo è sintomatico del modo in cui funzionano i mercati, cioè purtroppo si basano su pressapochismo che poi si diffonde. Non picchi così duro su di me, professore. Non su di lei, ma sui mercati, questo senz'altro sì, per cui le stesse cose che andavano bene per tutti, in qualunque paese, 10 giorni fa, 20 giorni fa, un anno fa, e non sono cambiate come struttura, improvvisamente diventano pericolosissime. Quindi il mercato è in preda a una convulsione in cui non sembra prendere decisioni razionali. Lei chiede come finirà. In questo modo il finale è caotico, cioè, e lo si vede benissimo, cioè abbiamo una serie, le convulsioni sono proprio materializzate dal grafico della borsa, che passa sopra e sotto il livello di apertura con una frequenza maggiore. C'è una grande confusione, diciamo, negli operatori su che cosa fare, quindi si privilegia il fare tutto in tempi brevissimi e poi nel disfare tutto negli stessi tempi. C'è una gran paura di perdere, ma questa paura può portare a perdite generalizzate. Questo il quadro, ma ci sono delle ragioni macroeconomiche sotto, professore, però... C'è una ragione macroeconomica di fondo, che la cura che è stata attuata per rilanciare l'economia mondiale è clamorosamente fallita, che era poi la cura americana accettata dagli altri paesi prima con qualche entusiasmo e poi a cominciare con la metà del 2010 con sempre più perplessità, che consiste banalmente nel pompare una grandissima quantità di liquidità nell'economia sperando che poi in questo modo le cose vadano bene. Bernanke, il governatore della Banca Centrale Americana, è stato chiamato Helicopter Ben, lui si chiama Ben di nome, Ben dell'elicottero, perché in un articolo aveva scritto che bastava prendere un elicottero, caricarlo di dollari e buttarli fuori. Ecco, gli Stati Uniti hanno buttato fuori una quantità incredibile di dollari. Questa non ha portato a un'apprezzabile ripresa dell'economia. C'è stata una piccola ripresa, se si fanno i conti sul pro capite, però non si è ancora o si è arrivati appena in alcuni paesi ai livelli precedenti la crisi, avendo perso a questo punto 3 anni. Altra notizia importante è arrivata in questi minuti. Tra poco, evidentemente, perché quel che è stato detto è che sarà a mercati chiusi, dovrebbe esserci una conferenza stampa di Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti, del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia. E altro che nel frattempo è successo, ha parlato il Presidente americano Barack Obama, che dice bene i dati di oggi sull'occupazione, ma bisogna creare più posti di lavoro. La faremo, l'economia andrà meglio. E poi ancora non c'è contraddizione tra il tagliare il deficit e creare il lavoro. A questo punto, prima di ritornare al professor De Aglio, coinvolgo ancora una volta Guido Gentili. Evidentemente l'urgenza del momento, da quel che abbiamo sentito, è stata percepita, Guido. Direi di sì, per fortuna da questo punto di vista. Credo che magari forse ci illustreranno anche qualche risultati dei colloqui che magari Berlusconi e Tremonti avranno avuto con i leader europei, con i colleghi dei governi europei. E quindi è chiaro che siamo in una fase da allarme rosso, l'Italia nell'occhio del ciclone come la Spagna, forse in questo momento più della Spagna, e come dicevo prima, diciamo, sull'Italia si gioca anche una fetta del destino dell'Europa stessa. Naturalmente. Grazie dunque a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Buonasera, Guido. Buonasera a voi. E rimaniamo con il professor De Aglio, al quale vorrei chiedere quel che dicevamo prima. Ce lo chiedono tanti ascoltatori. Come mai questa valutazione per il rischio dell'Italia maggiore rispetto a quello della Spagna, professore, secondo lei? Secondo me, accanto a condizioni oggettive dell'Italia, quindi una situazione politica più incerta, una certa minore credibilità di qualunque politica economica venga annunciata, ci possono essere anche le condizioni oggettive dei mercati. In qualche modo, esaurita la speculazione sulla Grecia, i mercati cercano un altro oggetto su cui speculare. E l'Italia, che aveva spread ancora relativamente vicini, relativamente bassi rispetto al marco, è più suscettibile di creare profitti in breve tempo a chi specula al ribasso di quanto non siano altri paesi. Quindi ecco l'interesse per l'Italia, ecco la sottolineatura in negativo di tante cose che sono sicuramente negative, ma che tutto sommato non avrebbero determinato mutamenti nell'atteggiamento dei mercati anche soltanto un mese o 2 mesi fa. Quindi lei dice, in sostanza, mi scusi se cerco di riassumere brutalmente, il fuoco in questo momento della cosiddetta speculazione è sul debito, e quindi è su queste debolezze che giocano i cosiddetti speculatori. Assolutamente sì. queste debolezze sono comparse come un particolare ignorato in una foto, per molto tempo l'occhio gli è passato sopra e improvvisamente ecco che vengono messe in rilievo. Da questo punto di vista la sua opinione è chiarissima. Quello che vogliamo capire è, secondo la sua idea, secondo la sua opinione, come se ne esce e quali sono le ricette, perché ne abbiamo sentite molte. Il tema mi sembra che sia che la ricetta deve essere politica, però se ne vede poca di politica in questo periodo. Ma guardi, io vedo due azioni su piani molto diversi. Una è un'azione di politica economica di medio-lungo periodo che parta dal presupposto che tutti, ma dico tutti, i paesi ricchi hanno dei bilanci pubblici non sostenibili, cioè hanno una prospettiva, soprattutto se si tiene conto della struttura demografica, delle spese sanitarie, hanno una prospettiva di indebitamento crescente che li porterà, c'è uno studio della Banca dei Regolamenti Internazionali su questo dell'anno scorso, che li porterà nel giro di 20-30 anni a livelli di indebitamento del 120-130 sul debito, cioè i livelli a cui noi siamo già arrivati adesso. Allora, su questo è necessaria un'azione di lungo periodo che modifichi una serie di elementi negativi, che faccia ripartire la crescita, perché soltanto con la crescita questa malattia si viene veramente curata. L'altro è il funzionamento dei mercati, cioè non deve essere possibile una serie di convulsioni come quelle alle quali stiamo assistendo, quindi devono essere introdotte maggiori trasparenze su chi è che compra, sul tipo di operazione che viene fatto ed eventualmente dei limiti sia a chi compra sia al tipo di operazione che viene fatto. Che alla fine, professore, questo è quello che ci eravamo detti usciti dal 2008, francamente, e sembra che evidentemente la lezione non sia stata compresa fino in fondo. Evidentemente Wall Street è stata più forte di Washington. Si crede alle volte che il presidente Obama, ma anche l'Unione Europea, abbiano, come dire, paura dei mercati, che abbiano una sorta di preferenziale, per cui neppure delle norme banali, che pure erano state proposte in Europa subito dopo il crack del 2008. Abbiamo perso il professor De Aglio, vedremo se riusciremo a recuperarlo nei prossimi minuti. Intanto io vi ribadisco quali sono le ultime notizie arrivate. Per il secondo giorno consecutivo il calcolo sull'indice FTSE MIB non è corretto, lo ha comunicato la borsa italiana. C'erano già stati, come sapete, problemi ieri, per cui eravamo venuti a sapere qual era stata l'effettiva chiusura della borsa di Milano solamente intorno alle 19:30, un paio d'ore dopo la chiusura, ed era il calo peggiore, un calo del 5%. Adesso siamo con un calo sul FTSE MIB dello 0,62, però non sappiamo effettivamente che cosa sia successo. Già ieri avevano detto problemi tecnici, evidentemente questi problemi tecnici immaginiamo che si siano ripetuti. Vedremo se ci sarà modo di avere anche maggiore chiarezza da questo lato. Abbiamo recuperato il professor De Aglio. Professore, lei ci diceva l'impressione è che Obama e, immagino a maggior ragione, Geithner abbiano un certo timore reverenziale nei confronti dei mercati. E direi proprio di sì. Direi che prima ancora che un fatto tecnico è un fatto culturale. Nella cultura degli ultimi 20 anni il mercato ha ragione. E quindi bisogna adeguarsi al mercato, e chi va contro il mercato si mette male. E credo che questo sia stato ben visibile. Ultima cosa che le chiedo riguarda invece più specificatamente l'Italia. Ne abbiamo sentite tante in questi ultimi giorni. Oggi attendiamo questa conferenza stampa di Tremonti e Berlusconi delle 19 e non sappiamo se sarà annunciato qualcosa, se sarà annunciato qualche provvedimento. La ricetta da questo lato qual è, secondo lei? Cioè, esiste una ricetta italiana o la ricetta deve essere europea? Ma la ricetta italiana deve essere una variante della ricetta europea che tenga conto delle nostre specificità. Io credo che bisogna ragionare di politica industriale prima ancora che di politica economica. Noi abbiamo una bassa produttività, la produttività cresce meno negli altri paesi, ma questo dipende quasi unicamente dai settori in cui ci siamo specializzati, che sono settori appunto a bassa produttività. Siamo usciti dall'elettronica, siamo usciti dalla chimica e dalla farmaceutica, che sono invece i settori in cui si va avanti. Quindi il vero programma che noi vorremmo sentire dai politici in genere è un programma che ragiona di settori, che ragiona di come può essere un'Italia economica di qui a 20 anni facendo determinati tipi di investimento e specializzandosi in determinate aree. Grazie, grazie al professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Grazie professore, buonasera. Grazie a lei, buonasera. Leggo qualche spiritosaggine, qualche battuta, ci chiedete se ci sarà un rally agostano. C'è chi la prende più seriamente, parla di impero del male che sta cannibalizzando se stesso. E chi ha le sue proposte per l'Italia? L'abbiamo sentita anche nei giorni scorsi, anche da altri, anche da operatori di mercato, dire guardate qua l'unica soluzione è una patrimoniale. Comunque la ricetta del professor De Aglio l'avete sentita. In assenza di Milano vi do la chiusura dell'Europa, intanto più o meno siamo a ridosso della chiusura, Francoforte molto male, un calo del 2,8%, Parigi dell'1,26%. L'America aveva recuperato qualcosina negli ultimi minuti, adesso è di nuovo giù dello 0,91%, lo Standard & Poor's 500 dell'1,29% addirittura, il Nasdaq di quasi 2 punti percentuali. L'euro quota 1,41,73 contro dollaro. Poi naturalmente su questi temi gli interventi non sono stati solamente delle autorità, non sono stati solamente politici, perché poi questo è un periodo, come sapete, di presentazione di semestrali e dopo una giornata come quelle di ieri chi le ha presentate oggi naturalmente si è soffermato anche su questi temi, come il consigliere delegato di Intesa San Paolo Corrado Passera, che dice non possiamo aspettare 2 mesi per lanciare progetti per la crescita, sindacati e imprenditori. I venditori sono oggi dalla stessa parte del tavolo, sono consapevoli dell'urgenza e dell'emergenza di certe misure, non solo per mettere a sicuro i conti, ma anche per stimolare la crescita. E poi ancora un appello dell'amministratore delegato delle Generali, Giovanni Perissinotto, dice di fronte al serio rischio di frammentazione dell'Europa, esorta ad un decisivo intervento delle nostre autorità centrali. Come la Banca Centrale Europea, parole dette tra l'altro aprendo la conference call, ossia la conferenza telefonica con gli analisti finanziari, per la presentazione della semestrale. E veniamo proprio ai mercati. Guido Maurino, Radio Cori il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E anche oggi ci becchiamo un FTSE MIB che non sappiamo a quanto abbia chiuso. No, infatti c'è un'indicazione di massima che può essere meno 0,62%, però non c'è ancora stato confermato come corretto da Borsa Italiana, per cui anche noi siamo qui in attesa. Possiamo dire che il FTSE All Share, quello dovrebbe essere corretto, ha ceduto lo 0,89%, e che se appunto questi valori fossero confermati, Milano avrebbe fatto un po' meglio di quello che hanno fatto le altre principali borse continentali, visto che Francoforte e Londra hanno perso oltre il 2,5% e Parigi l'1,26%. Sì, con l'America che in questi minuti sta visibilmente peggiorando, il Dow Jones perde l'1,25%, il Nasdaq il 2,5%, lo Standard & Poor's 500 l'1,70%. Non hanno dato ulteriori spiegazioni da Piazza Affari, Guido, perché insomma è il secondo giorno consecutivo. No, diciamo che come ricordavi anche tu prima, ieri avevano parlato di problemi tecnici, avevano allontanato ogni dietrologia su quanto stesse succedendo, oggi hanno fatto lo stesso, anche se appunto non hanno saputo darci indicazioni più precise su quello che stia avvenendo. E hanno detto che appunto nel corso della serata ci avrebbero fatto sapere qualcosa di più preciso, sia relativamente alla chiusura che anche alle spiegazioni. Alle spiegazioni, probabilmente anche su questa due giorni. Allora, noi a questo punto veniamo ai singoli titoli e partirei proprio dall'azienda che abbiamo testé citato, da una delle aziende che abbiamo testé citato, ossia Intesa San Paolo, un guadagno del 5,61%, oggi la semestrale, ma oggi anche il fatto che doveva riprendersi qualcosina dopo aver perso il 10% ieri. Sì, c'è sicuramente questo fatto, oggi è stato un po' tutto il settore bancario italiano a riprendersi. Va comunque ricordato che sia i conti di Unicredit che quelli di Intesa San Paolo sono stati giudicati molto positivamente dagli analisti. Per quello che riguarda Intesa San Paolo, chiuso con un utile netto di 1,4 miliardi, in calo sì del 17% rispetto al primo semestre del 2010, ma con un calo che è stato dovuto in gran parte ad alcune svalutazioni, senza le quali il risultato avrebbe mostrato una crescita del 6,7%, per cui insomma sì, sono stati risultati ben considerati dagli analisti, a fronte anche di un dato che è diventato molto importante nel corso degli ultimi anni, che è quello della posizione patrimoniale, con un core tier 1 che è salito oltre il 10% al 10,2%. Allora, tra un attimo verremo anche a Generali. Telecom Italia più 5,3%, anche qua siamo nella parte alta del listino. Sì, anche qui sono stati i conti semestrali a spingere il titolo in borsa. Va detto che paradossalmente Telecom Italia ha chiuso il semestre con una perdita di 2 miliardi di euro, però questo è stato dovuto soprattutto alla svalutazione dell'avviamento sulle attività italiane per 3,2 miliardi. Senza queste svalutazioni la società avrebbe registrato un utile di 1,1 miliardi superiore a quello che si aspettavano gli analisti. La società ha anche rassicurato che questa svalutazione non andrà ad incidere sul dividendo, che sarà comunque pagato, che per la quale attingerà ad altre riserve, per cui insomma tutto questo insieme di fattori ha contribuito a far sì che appunto Telecom Italia abbia chiuso a più 5,3% oggi. Bene, anche Buzzi Unicem più 4,86, era calata parecchio nei giorni scorsi, Guido, se non sbaglio, brevemente. Era calata anche qui parecchio nei giorni scorsi, oggi ha pubblicato anche Buzzi Unicem i suoi conti semestrali, sono conti comunque positivi anche se in calo per quello che riguarda l'utile netto, soprattutto ha confermato le attese per quello che riguarda la seconda parte dell'anno ed è stato quindi ben accolto dagli operatori. Bene, complessivamente i bancari, Banco Popolare su del 3,91, Bibanca più 2,93, Unicredit più 2,21, dopo il calo del 9% di ieri, se volete chiamarlo rimbalzo, chiamatelo rimbalzo, Fiat anche qua, se volete chiamarlo rimbalzo, ieri aveva perso il 10, oggi guadagna il 2,60%. Altro grande gruppo che ha presentato i conti oggi è Generali, e però è un meno 3,5%. Sì, la compagnia triestina ha presentato conti che sono stati giudicati positivamente dagli analisti. Alcuni oggi ci dicevano che Generali può pagare un pochettino più degli altri la situazione di incertezza relativa all'Italia, paga forse anche alcuni conti non particolarmente brillanti diffusi da altri competitor oggi, penso ad esempio ad Allianz che ha presentato conti molto, molto brutti e che è stata penalizzata sulla borsa di Francoforte cedendo il 4,5%. Ecco, in tutto questo abbiamo detto in apertura del petrolio, che ha messo a segno una serie di sedute negative, ha perso circa un 15% in pochi giorni, adesso siamo a ridosso degli 86 dollari e mezzo al barile circa, Guido, e questo naturalmente ha un peso sui petroliferi, come prevedibile. Sì, ha un peso sui petroliferi, poi diciamo che anche le incertezze economiche che non sono state dissipate dal dato sulla disoccupazione americana hanno un peso un po' su tutti i titoli, diciamo così, più ciclici, quindi sia il petroliferi che il settore industriale. Oggi il titolo peggiore è stato appunto Pirelli, meno 6,18%, poi alcuni petroliferi importanti come Tenaris, meno 6,13%, Saipem meno 5,31%, la stessa Eni ha perso quasi il 3,5%. C'è un motivo per il quale, mentre la controllata guadagna il 2,6%, sia Fiat Exor perde il 5,7% oggi? No, nessun motivo in particolare. Diciamo, Exor si era mossa un po' meno nei giorni scorsi, quando Fiat e Fiat Industrial avevano perso decisamente terreno in borsa, e oggi diciamo gli operatori, alcuni si sono ricoperti su Fiat e su Fiat Industrial, che hanno chiuso in positivo e hanno venduto Exor. Grazie a Guido Maurino di Radio Core Il Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Allora, chiudiamo dandovi anche gli altri titoli. C'è l'automatica che scende del 5,5%, di Saipem vi abbiamo detto, Autogrill giù del 3,8%, Eni del 3,4%, di Assorin del 3,4%, Enel Green Power del 3%, Enel del 2,84%, del 2,6% Campari, del 2,5% Prismian, Atlantia e A2A scendono dell'1,6%, Eterna dello 0,9%, Bulgari dello 0,3%, così come Parmalat, Azimut, TOTS dello 0,24%, Ansaldo in positivo dello 0,17%, Mediolanum dello 0,24%, Snamret e Gas dello 0,27%, Luxottica dello 0,35%, Fiat Industrial di mezzo punto percentuale, il Monte dei Paschi dello 0,6%, su anche in pregilo di un punto percentuale, bene anche Mediobanca e la Popolare di Milano sempre di un punto percentuale, recuperano qualcosa Finmeccanica, DST Microelectronics dell'1,84% e del 2,04%. Vi do in queste giornate di borsa anche una notizia che mi ha appena portato Mauro Del Corno, che l'uomo più ricco del mondo, Carlos Slim, in 4 giorni ha perso 8 miliardi di dollari. Una curiosità per chiudere, dunque, un ringraziamento appunto a Mauro Del Corno in redazione, a Mauro De Angeli in regia, un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, una buona serata da Simone Spezia. Focus Economia torna lunedì con Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.